nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 6 giugno, il sole in regione sorto alle 5.17 e tramonterà alle 20.55. Giovedì c'è luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino. Orticoltura, solidarietà, inserimento al lavoro di persone svantaggiate. Questi i caposaldi che organizzano la missione della cooperativa El Seme di Fiume Veneto, che compie 40 anni e non ha abbandonato la voglia di innovare. A seguire il corsivo di Enos Costantini, che tesse le lodi del miglio, un cereale a torto considerato solo quale becchime per uccelli. Ci sono poi le immancabili novità burocratiche sull'etichettatura anche dei prodotti agroalimentari, quali e come affrontarle. Per la rubrica della frutticoltura, tutto quello che si deve sapere per la scelta della pianta di fico adatta per il vostro giardino, mentre in quella dei cambiamenti climatici il ruolo e la difesa degli insetti, creature strategiche per l'agricoltura. A seguire uno studio dell'Università di Udine sul gradimento dei prodotti agroalimentari locali e l'utilizzo della lingua friulana per la loro promozione. Andamento dei mercati, previsioni meteo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. A Fiume Veneto compie 40 anni la cooperativa sociale Il Seme, che si occupa dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e lo fa tramite l'agricoltura. Ne parliamo con Laura Lenardon, che è la presidente della cooperativa. Innanzitutto, che tipo di agricoltura praticate? Nella nostra azienda pratichiamo l'ortofloricoltura, quindi produzione di ortaggi, piantine da orto e piantine da fiore. Ci siamo specializzati con la tecnica innovativa del fuorisuolo, in particolare con la produzione di fragole, quindi fuorisuolo orizzontale e fuorisuolo verticale. È una cosa innovativa che in regione credo siano pochi che fanno e dove vengono proprio inseriti i ragazzi. I ragazzi da voi come lavorano, cosa fanno, qual è la loro giornata? Allora, iniziano la mattina, vengono divisi in gruppi di lavoro, nell'orto vengono fatte le raccolte, prima ancora vengono fatte le semine, i trapianti e dopo vengono conferiti nel negozio lì in cooperativa, dove appunto viene fatto il lavaggio delle verdure e preparate per l'esposizione al pubblico. Qual è il tipo di rapporto di questi ragazzi con la terra, con l'agricoltura? È un amore profondo, perché proprio nasce dal fatto di poter essere all'aperto, di poter essere insieme ad altre persone e con il lavoro loro esprimono il meglio di se stessi. Per voi che dovete portare avanti questa esperienza, quali sono i problemi principali? Da sempre abbiamo sostenuto questa cooperativa che da 40 anni ha voluto proprio creare un ambiente per persone svantaggiate che avevano problemi psichiatrici, che quindi arrivavano da un percorso magari un po' difficile, quindi riuscire a vedere una serenità e una gioia nel posto di lavoro, questo è il primo desiderio e la prima scommessa. Quanti ragazzi lavorano da voi? Attualmente lavorano 10 persone svantaggiate, però poi abbiamo 8 borse a lavoro, che quindi anche quelle persone lavorano il mattino da noi, quindi diciamo il gruppo è bello numeroso. Il mondo pubblico vi è vicino? Il mondo pubblico è sempre stato presente, perché l'azienda sanitaria ha sempre creduto in questo progetto e l'ha sempre sostenuto. E senz'altro anche nel mondo proprio economico e produttivo, in questi 40 anni qualcosa è cambiato e quindi adesso ci sono magari più difficoltà, però ce la mettiamo tutta. E quando non ci sono le fragole, che cosa coltivate? Allora, in questo momento ad esempio abbiamo una bellissima raccolta di lattughe, di cetrioli, di melanzane, forse le prime, insomma le primizie, e poi in tutta la stagione tramite il nostro agronomo vengono sviluppati proprio dei programmi per sfruttare al meglio tutte le colture. E per quanto riguarda invece la programmazione, diciamo, sociale della cooperativa? Diciamo che attraverso l'agricoltura, quindi l'agricoltura copre gran parte dell'anno per quanto riguarda la parte dell'orto e delle produzioni orticole. L'azienda ha una produzione di fiori, quindi nel periodo in cui l'azienda non può dare lavoro sull'orto, lo propone sul fiore. Quindi il personale è impiegato nella nostra azienda tutto l'anno. Il negozio funziona? Sì, funziona e c'è tanta gente che viene a prendere i nostri prodotti, soprattutto anche con il periodo del Covid ha capito quanto è importante, quanto cambia proprio il valore e il sapore delle cose fatte dall'orto e fatte dalle mani e quello che alle volte si trova al supermercato. E spesso quindi venendo nel negozio dei fiori hanno accesso anche al negozio delle verdure e quindi completiamo la gamma in questo modo, insomma. Ridotto a becchime, il miglio sta incontrando in questi anni una riscoperta agroalimentare, rinnovando le fortune che aveva avuto nella storia. Ce ne parla in questo corsivo Enos Costantini. Dove si puliva la gabbia dei cardellini e dei canarini, si vedevano crescere miglio, scagliola e canapa. La scagliola è becchime centrica e la canapa è ora tabù. Il miglio era coltivato nel Cividalese fino agli anni 70 come foraggio estivo per le vacche. Con sorpresa ne ho incontrati alcuni ettari l'estate scorsa nella zona di Remanzacco. Pare che sia venuto alla moda perché non contiene glutine grazie alla alimentazione salutista. Il miglio è un cereale che non appartiene alla piccola schiera di quelli che hanno fondato l'agricoltura nella mezzaluna fertile. È stato domesticato in Cina e a quanto pare anche nell'Europa orientale. Viene da domandarsi se ha una storia in Friuli. Certo che ce l'ha, ma non come becchime, bensì come umano mangime. Gli affitti medievali, che si pagavano in natura, accanto al frumento e al vino, hanno sovente il miglio. E ciò significa che era in uso ed era diffuso, perché poco esigente e molto conservabile. Che cosa se ne faceva? Polenta, polenta, ancora polenta. La polenta non si è inventata quando è arrivato il mais, che i messicani ci hanno regalato a loro insaputa. Si potevano fare anche gallette o piccole focacce, quelle che in friulano si chiamano pete. Siccome poi i friulani erano grandi mangiatori di minestre, ecco che il miglio entrava nelle medesime, e tale pratica è durata almeno fino all'inizio del secolo scorso. Tanto che il vocabolario Nuovo Pirona menziona una minestre di metal latte. Per darvi un'idea del suo valore pecuniario, vi diciamo che nel 1528 sul mercato di Spilimbergo, quando il frumento valeva 14,6 lire venete allo staio, il miglio ne valeva 9,17 e il sorgo era come sempre buon ultimo con 4 lire soltanto. Il miglio è pianta estiva a rapido crescimento, è adatto a colture intercalari, poco esigente in fatto di terreno e moderatamente resistente alla siccità. Si trova in commercio intero o decorticato ed è facile da mettere in una minestra a cui fornisce consistenza ma non collosità. Credo che a nessuno interessi di provare la polenta di miglio, ma una sua rivalutazione nella cucina del quotidiano è auspicabile. Le sue caratteristiche agronomiche e alimentari ne possono fare un cereale del futuro, sempre che ci interessi ancora un futuro e senza nulla togliere ai canarini. Dal 1 gennaio del 2022 scatteranno nuovi obblighi in fatto di etichettatura ambientale degli imballaggi. Assieme a Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, vediamo di cosa si tratta. Forse non tutti sanno che il decreto legislativo 152 del 2006, noto anche come testo unico ambientale, lo scorso anno è stato aggiornato per recepire una direttiva comunitaria che prevede che tutti gli imballaggi vengano opportunamente etichettati per guidare l'utilizzatore finale verso una corretta raccolta differenziata. Naturalmente l'obiettivo finale è quello di incentivare il più possibile il riciclo in un sistema di economia circolare. Attenzione che la disciplina vale per qualsiasi bene di consumo, compresi i generi alimentari. L'obbligo doveva scattare già il 1 gennaio di quest'anno, ma il termine è stato prorogato dal recente decreto sostegni, in quanto la questione si è rivelata più complessa del previsto. Quali sono i problemi riscontrati? Ci sono beni di consumo, pensiamo a un pacco di pasta, che sono semplicemente contenuti in una scatola di cartone, ma ce ne sono altri che hanno confezioni più complesse. È il caso per esempio di uno spumante pregiato che può avere la bottiglia di vetro, il tappo in sughero, la gabbietta in acciaio, la capsula in alluminio e magari tutto contenuto in una scatola di cartone. In questi casi definire uno standard di etichettatura ambientale valido per tutti non è semplice. per non parlare dei materiali compositi come per esempio il Tetra Pak del latte fresco o dei succhi di frutta. Bisogna poi considerare che lungo la penisola ci sono diversi sistemi di raccolta differenziata nei quali, per fare un esempio, le lattine qualche volta vanno assieme al vetro, altre volte con la plastica o magari da sole. Insomma, in attesa che il Ministero per la Transizione Ecologica faccia chiarezza, il Parlamento ha giustamente prorogato il termine. Però al 1 gennaio 2022 mancano solo 7 mesi. E allora quali sono i consigli? Le imprese del settore alimentare, così come tutte le altre, sono comprensibilmente preoccupate. Molte infatti sono abituate a fare scorte di etichette per più mesi, alle volte anche per più anni. E se non arrivano chiarimenti entro breve si troveranno in forte difficoltà. Per qualcuno c'è anche un problema di packaging e di immagine. Per il momento gli unici consigli che possiamo dare sono di accumulare meno magazzino possibile di etichette e studiare le linee guida pubblicate dal Consorzio Nazionale Imballaggi sul portale www.conai.it. Non è un documento ministeriale, ma al momento è la fonte più autorevole che c'è. Un po' tutti in regione avevano un fico nell'orto o in giardino, pianta comunissima che chiede però delle avvertenze nella scelta della varietà utile, come ci dice oggi Raffaele Testolin. Cominciamo col dire che c'è fico e fico. Alcune varietà producono 2 volte in un anno, fioroni in primavera, se l'inverno non è stato troppo freddo, e fichi a fine estate. Altre producono solo fichi a fine estate. Direi che con noi friulani il Padre Eterno è stato come al solito poco generoso. Al sud ci sono varietà che producono anche 3 volte in un anno. Il fatto di produrre 1 o 2 volte è una caratteristica genetica. Bisogna informarsi quando si acquistano le piante. I garden center spesso si procurano piante da frutto senza andare per il sottile e così quando andiamo lì per acquistare la pianta di fico ci troviamo davanti varietà come il broggiotto, bianco o nero che sia, il dottato o altre piante con il cartellino fico comune. Certamente le 2 varietà che ho citato sono tra le migliori varietà italiane, ma non vanno bene da noi. Se piove un po' quando maturano i fichi non raccogliamo niente. Bisogna cercare fichi adatti al nostro ambiente e non è facile. I nostri giardini sono pieni di fichi, alcuni sono interessanti ma molti non meritano grande attenzione perché spaccano facilmente in prossimità del foro prima di arrivare a maturazione. Fermentano, sono preda delle api o delle vespe e diventano acidi. Altri hanno la buccia così delicata che si sciupano solo a guardarli. Allora cosa fare? Dobbiamo farci la pianta da soli. Prima di tutto si va a trovare gli amici nella stagione giusta e si assaggiano i loro fichi. Quando avete individuato la varietà che vi piace, tornate dall'amico durante l'inverno, prendete un pollone, di quelli che nascono facilmente alla base dell'albero, tagliatelo a pezzi di 3 gemme, preparate una piccola aiola in orto o preparate qualche vaso con del buon terriccio e piantate i pezzi, avendo l'avvertenza di tenere le gemme girate per il verso giusto. Curate le piante durante l'estate, dando acqua quando serve e alla fine dell'anno avrete la vostra pianta di fico pronta da mettere in giardino. Se siete pigri, cercate il figo moro di Caneva presso qualche vivaista, oppure a febbraio venite ad acquistare le piante nell'azienda agraria dell'Università di Udine in via Pozzuolo, dove ho recuperato 2 varietà che ritengo interessanti per l'ambiente friulano. Un fico di Butrio a buccia scura che produce fioroni non eccezionali e fichi molto buoni e un fico Caterina a buccia verde che produce fioroni e fichi. Per concludere, 2 parole su quando si raccoglie il fico. Isabella Dalla Ragione, una simpatica agronoma che raccoglie varietà antiche di piante da frutto nell'Italia centrale, dice che il fico va raccolto e mangiato quando ha il collo storto, la camicia strappata da furfante e l'occhio lacrimoso. Se volete crederle. Agricoltura e biodiversità, un binomio che deve mantenere l'equilibrio anche con scelte che vadano contro gli immediati interessi economici. Ci dice di più Silvia Stefanelli. Oggi parleremo di agricoltura e biodiversità. Questa permette ai sistemi agricoli di superare shock ambientali e l'impatto dei cambiamenti climatici, consente di produrre cibo con un minore impatto su acqua e suolo e con meno input esterni, costosi e dannosi per l'ambiente. La perdita di biodiversità, causata da un uso estensivo di pesticidi, da una semplificazione estrema del paesaggio, dalla trasformazione del territorio, ha un impatto sugli insetti impollinatori. Circa il 40% della produzione agricola mondiale proviene da colture che dipendono dal lavoro degli insetti. Eppure, in Europa, negli ultimi 10 anni, il 70% della biomassa degli insetti volatori è sparito. Tra queste ci sono le api, ben 2000 specie in Europa, il 10% delle quali si stanno estinguendo. Che cosa si può fare? Alcuni comuni e province italiane stanno prendendo provvedimenti. Quando la Regione Veneto ha esteso la DOC del Prosecco anche al Bellunese, questo territorio ha dovuto scegliere se perseguire un modello di produzione super intensivo dei vigneti del Trevigiano oppure prendere una nuova direzione. Il sindaco di Belluno ha scommesso sull'agricoltura più sana e di qualità. Sono state regolamentate le distanze dei trattamenti dell'abitazione e messi al bando alcuni tra i fitofarmaci più nocivi per l'ambiente. In provincia di Trento, il piccolo comune di Vallarsa ha adottato il più rivoluzionario dei regolamenti antipesticidi. A Vallarsa sono gli agricoltori convenzionali a dover dimostrare di non causare danno all'ambiente e alla biodiversità. Bene, io credo che anche in Friuli ci si dovrebbe chiedere se perseguire, per esempio nei vigneti e nelle nuove piantagioni di Prosecco, modelli più compatibili con la tutela della biodiversità, tra cui gli insetti impollinatori. L'occasione può nascere per esempio dal luglio 2021, quando il Mancozeb, un fungicida ampiamente utilizzato anche nella nostra regione, sarà ritirato dal mercato per confermate criticità per la salute e l'ambiente. Allora, quali pratiche adottare per una migliore sopravvivenza degli insetti impollinatori? In primis c'è l'agricoltura biologica, considerata il metodo più compatibile con la conservazione degli insetti, ma anche una diversificazione biologica del suolo nel vigneto, mantenendo una copertura erbacea tra le file e bordura erbacea spontanea attorno al vigneto. Infine, una maggiore eterogeneità degli habitat, conservando elementi estensivi come siepi e filari arborei, arbusti all'interno del vigneto, che fanno diventare lo stesso luogo di attrattività per insetti, uccelli e piccoli animali. Valore della lingua friulana e del cibo locale nelle feste paesane. Indagine presso i consumatori. È il titolo di un'indagine che il professor Francesco Marangon, che insegna economia ed estimo rurale all'Ateneo Udinese, ha appena terminato. Cos'è emerso, professore? Abbiamo ascoltato l'opinione di oltre 400, precisamente 424 residenti nella nostra regione a fine 2020, e quindi è la prima volta che ne parliamo e raccontiamo questi esiti dell'indagine, e abbiamo immaginato di presentare loro un ipotetico evento che avesse un nome in friulano, in cui si potesse consumare dei prodotti tipici locali e avere anche dei servizi aggiuntivi, magari un corso di cucina o una visita guidata, ma il tutto, e questa era la particolarità, pagando un biglietto d'ingresso. Forse questa è una cosa un po' originale, non sempre accade, qualche volta sì. Ebbene, la disponibilità a pagare c'è, e l'evento che è stato maggiormente scelto, perché noi ne proponiamo di diversi, è quello con un biglietto d'ingresso di 5 euro che permettesse con quel biglietto di consumare un pasto che fosse naturalmente basato su prodotti enogastronomici offerti a livello locale. Noi abbiamo, a proposito di località, siamo concentrati, perché facciamo un lavoro in quel contesto, nel territorio della comunità collinare del Friuli. C'è l'attenzione all'impatto ambientale, e fra i servizi che vengono particolarmente graditi vi è quello di poter fare una passeggiata con una guida naturalistica. La cosa interessante allora è questo collegamento, che era l'obiettivo del nostro lavoro, fra la proposta dell'evento, con nomi che sono tipici poi delle nostre feste paesane, sagre, fieste, perdone, via di questo passo, in friulano, abbinato a cibi locali. E questo è un interesse che è diffuso a livello dell'intera regione. Ma professore, nelle feste, quelle vere, ormai si mangiano hamburger, calamari, galletti hamburghesi. Il cibo locale resiste ancora? Secondo l'interesse degli intervistati dovrebbe resistere. Bisognerebbe certificare che quello che viene usato è un cibo locale, perché anche l'hamburger può essere basato su carne proveniente da allevamenti della nostra regione. Gli altri esempi è già un po' di più difficile. Però secondo me non solo gli ingredienti ma anche le ricette potrebbero essere un'ottima leva per portare a livelli ancora più interessanti questa proposta enogastronomica e culturale legata alla nostra lingua e alla nostra cultura. E con Amos D'Antoni vediamo ora l'andamento dei mercati agricoli. Mercato debole con prezzi stazionari venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 25,60 e 25,80 euro al quintale IVA esclusa, la crusca in sacco tra 23,10 e 23,20, il farinaccio tra 24 e 24,10, mentre il frumento e l'orzo non sono stati quotati in attesa del nuovo raccolto. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 9,50 euro il quintale. Contrattazioni buone all'ortofrutticolo di Udine con prezzi in movimento, l'insalata gentile e la lattuga a Trocadero vengono quotate tra 0,80 e 1 euro il chilo IVA esclusa, le zucchine tra 1,30, i cavoli tra 1,30 e 1,60, la scalola riccia tra 2,50 e 2,60, il ricchio rosso tondo e quello di Treviso si quotano da 2 a 2,20, le pesche da 1,80 a 2,80, le albicocche da 2 a 3,50, le ciliegie da 3,50 a 6,50 e l'anguria da 0,65 a 0,80 euro il chilo. Nel settore della pesca, per le condizioni meteo in fase di miglioramento, i prezzi sono in leggero calo. Alla cooperativa pescatori San Vito di Marano Lagunare, i branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, sono quotati da 24 a 37 euro al chilo IVA esclusa. Le sogliole da 7 a 23, le mazzancolle da 28 a 34, le seppie da 7 a 11, le canoce da 5 a 15, le passere da 15 a 17, i laterini da 9 a 10, le capesante e i gamberetti da 13 a 16. Infine, in lieve ripresa invece il prezzo del latte crudo di vacca, francostalla di origine del Friuli Venezia Giulia, dove la commissione camerale di Pordenone e Udine giovedì scorso lo ha quotato a 35,50 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Con il previsore dell'ARPA Osmer Sergio Nordio, uno sguardo al tempo che farà la settimana entrante. Giugno è iniziato con giornate soleggiate su pianura e costa, mentre sulla zona montana si è osservata variabilità, con rovesci temporaleschi, localmente anche consistenti, come è accaduto venerdì pomeriggio sul settore più occidentale della carne in Valtagliamento. Le temperature dopo i primi giorni, con valori leggermente inferiori alla media, stanno rapidamente risalendo. Oggi e domani il passaggio in quota di una moderata depressione porterà a un incremento dell'instabilità, con rovesci e temporali sparsi, possibili su tutte le zone, alternati a schiarite. I temporali localmente potrebbero portare anche piogge abbondanti. Da domani sulla costa soffrirà un po' di borino al mattino, mentre in giornata prevarranno i venti a regime di brezza. Martedì e mercoledì avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sulla zona montana, dove continueranno a essere probabili rovesci e temporali sparsi al pomeriggio. Resterà invece piuttosto bassa la probabilità dei temporali su pianura e costa. Nella seconda parte della settimana, il perdurare di deboli correnti fresche settentrionali in quota dovrebbe favorire giornate decisamente soleggiate al mattino, ma con possibili locali temporali pomeridiani o serali su tutte le zone. Le temperature rimarranno abbastanza stazionarie sui valori intorno alla media, con massime di 27-29 gradi in pianura, tra 24 e 26 sulla costa. L'evoluzione del tempo nel prossimo fine settimana sembra procedere senza grandi stravolgimenti atmosferici, ma come sempre raccomandiamo di seguire costantemente l'aggiornamento delle previsioni. Termina qui la puntata, vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano della settimana. A San Barnabà la ue in flore va, ovvero a San Barnabà l'11 giugno fiorisce la vite. Coordinamento tecnico di Marco Rasi, nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.